Dunque, veniamo alla rassegna stampa di oggi, domenica 13 marzo 2016. Una rassegna stampa che ci propone in realtà diversi temi sul piatto, sul tavolo, sul nostro tavolo sono diversi temi e i giornali riflettono bene questa eterogeneità, perché si passa dalla cronaca nera con ancora il caso romano del ragazzo ucciso che fa discutere e scrivere soprattutto e più avvoltoi tra i giornalisti, ma ancora cronaca nera con gli alpinisti, una valanga in Alto Adige che fa diverse vittime, 6 tra cui anche un 16enne. E con questa fotonotizia per esempio apre il Corriere della Sera, ma poi ancora questione migranti, su cui lo stesso Corriere della Sera fa l'altro titolo principale di apertura, ma poi ancora la questione murale con cui apre e titola il manifesto di oggi, ovvero la clamorosa protesta di Blu contro la privatizzazione dei suoi murales, appunto a Bologna. Altri temi poi inevitabilmente il teatrino politico tra gazebarie primarie del Partito Democratico, liti interne infinite in questo partito sedicente democratico, e dunque questi, poi ancora summit europei, notizie tante dagli esteri, le andremo a vedere man mano più tardi. Quindi in realtà sono molti temi sul tavolo di lavoro per questa rassegna stampa di oggi, domenica 13 marzo 2016, ma partiamo, come spesso facciamo, con la testata principale di quella che usiamo etichettare come stampa borghese, nonché tra i quotidiani più influenti e più venduti in Italia. Siamo sulla testata di via Solferino a Milano, Corriere della Sera. Come vi dicevo, fotonotizia tutta dedicata ai 6 alpinisti sepolti dalla neve a 3000 metri, così titola il Corriere della Sera, valanga in Alto Adige, un 16enne tra le vittime, come già annunciato. L'altro grande titolo, strappo di Parigi sui migranti, Ankara si fermi, e il premier italiano, cioè Renzi, che dice basta vertici dell'Unione Europea ogni 15 giorni, insomma Matteo Renzi ha cominciato, continua con il suo protagonismo politico non solo in Italia ma anche all'interno del Partito Socialista Europeo. Comunque leggiamo il sommarietto che il Corriere dedica a questo titolo: Hollande ha incontrato i leader socialisti europei all'Eliseo, tra cui anche Matteo Renzi, e ha affrontato il tema immigrazione spiegando, in vista del vertice europeo di giovedì e della trattativa con la Turchia, che non ci possono essere concessioni sui diritti umani o sui criteri di liberalizzazione dei visti. Anche Renzi ha affrontato il tema dicendo che non è possibile fare un Consiglio europeo ogni 15 giorni, diamo l'idea che non governiamo processi epocali, ed effettivamente questi processi epocali li state governando veramente, veramente molto male. Basta guardare tutta la questione migranti, con cui alcuni giornali aprono anche con una foto strappalacrime, ovvero quella di un bambino appena nato in una tendopoli di Idomeni, siamo al confine greco-macedone, che in questi giorni ha fatto parlare molto di sé, questo bambino che appunto viene lavato con l'acqua, una foto che in qualche modo cerca di fare concorrenza a quella che ha infestato le prime pagine dei giornali per diverso tempo, ovvero quella della drammatica foto del bambino soccorso in acqua. Eravamo lì, se non erro a Smirne, ma comunque sulla costa turca, e anche questa insomma sarà una foto che farà in qualche modo copertina, ecco, almeno per le testate nostrane ma anche sicuramente europee e internazionali. Con questa foto decide di aprire ad esempio La Repubblica. Ma torniamo sulla copertina del Corriere della Sera, perché c'è un commento poi di Federico Fubini su questo tema, più sul versante politico, diplomatico, è inevitabile, Fubini è un analista politico, economico. Il collante Merkel-Draghi che tiene insieme l'Europa, indebolito l'asse Germania-Francia. E su questo poi c'è un editoriale di Marco Cianca: la forte spinta della BCE frenata dai vecchi fantasmi. Siamo più o meno sui temi già evocati anche da Fubini, mettendo appunto in contrapposizione Merkel e Draghi, perché insomma da una parte si vuole l'inflazione, leggi Draghi, dall'altra la deflazione, leggi Merkel, o comunque tutto l'establishment burocratico amministrativo tedesco. Infatti Marco Cianca scrive che i tedeschi, che hanno ben vivo il ricordo della Repubblica di Weimar, anticamera del nazismo, quando con una carriola piena di banconote che non si arrivava a comprare nemmeno un chilo di pane, non vogliono sentir parlare di politiche inflazionistiche. Rigore, rigore, rigore è il loro mantra. E in virtù di una tale incrollabile fede giudicano un veleno ogni iniezione di denaro che possa far lievitare i prezzi. E dall'altra, appunto, Mario Draghi, che cercherebbe un po' più di liquidità immettendo più soldi nel sistema bancario europeo tramite la BCE. E qui un po' la spaccatura, ovviamente, anche tra economisti e analisti, che considerano, tra chi considera positivo un aumento dei prezzi, almeno stando in un parametro molto rigido, ovvero tra l'1 e il 2%, e chi invece non accetta queste posizioni. Mario Draghi auspica ovviamente riforme strutturali, che significano niente meno che austerità. E poi il commentatore Marco Cianca del Corriere ci ricorda che John Kenneth Galbraith ha scritto che quando si legge uno studio economico bisogna chiedersi se qualcuno lo ha finanziato. E beh, un'affermazione pesante, continua il commentatore, provocatoria per lui, per ammonire che gli interessi in gioco sono tanti e spesso oscuri. Ed è vero, insomma, questo Marco Cianca fa fatica ad ammetterlo, ma è così, bisogna sempre vedere chi sono. Intanto chi scrive, qual è il suo retroterra culturale, qual è il suo paese, ma soprattutto poi chi quel lavoro effettivamente lo finanzia, ha tutti i suoi interessi affinché un lavoro dica una cosa piuttosto che un'altra. Questa, insomma, è una delle cose migliori che, insomma, l'epistemologia strutturalista e un certo filone di studi ci ha insegnato. C'è ancora evidentemente chi fa fatica ad ammetterlo. Ma torniamo sulla pancia del giornale del Corriere della Sera, perché l'altro grande tema è quello dei democratici. Lite tra Renzi e la minoranza, primarie o solo capibastone, questo sottotitolo un po' oscuro. Bersani che dice dell'Italicum penso il peggio possibile, ma poi la lite nel PD in realtà è scattata perché Renzi ha dato addosso all'Ulivo. Bersani ha subito puntato i piedi dicendo: guarda che l'Ulivo l'abbiamo fatto noi, non puoi permetterti di disputarci sopra. Poi inevitabilmente avrete sentito anche le dichiarazioni di Massimo D'Alema, hanno fatto scalpore, tra l'altro dalla stessa scuola di formazione del PD, che sembra non avere mai fine. Da diversi mesi che se ne parlano di questi incontri, che ovviamente fanno discutere e vanno sulle prime pagine dei giornali. D'Alema, intervento ovviamente molto critico nei confronti di Renzi, e infatti questo un po' cerca di riportare il sommarietto del Corriere della Sera. E poi, a proposito del duello nel partito, Pierluigi Battista, altra firma di punta di questa testata, che nel suo corsivo intitolato C'eravamo tanto odiati parla appunto di questo duello all'interno, questa resa dei conti sarebbe meglio dire, all'interno del Partito Democratico. E poi questo commento di Aldo Grasso su il PD e il manager TV, Cosenza come Bergamo, e si parla di questo Lucio Presta, tra l'altro sposato con Paola Perego, nota faccia televisiva. Lucio Presta, agente delle Star in gara per la carica di sindaco, ha scelto Renzi dicendo: non è Presta che è andato dal PD, è il PD che è venuto da Presta. Quasi un'epifania, quasi una illuminazione per questo Presta, agente delle Star, insomma, grossi nomi, da Benigni a Bonolis, da Amadeus e tanti altri, nonché grande amico di Briatore, si presenterà come sindaco di Cosenza in una lista civica chiamata Amo Cosenza. Aldo Grasso gli dà grosso spazio, almeno così la redazione del Corriere della Sera, e insomma ci fa riflettere su quanto ormai anche la politica sia spettacolarizzata, sempre più un'estetica, anche una faccia sicuramente conosciuta come Lucio Presta, almeno nell'ambito delle star, ex ballerino peraltro. Insomma, quanto possa essere incisiva una candidatura del genere. Ma invece l'editoriale in prima sul Corriere della Sera l'ho tenuto da ultimo, anzi, altra segnalazione importante: Fiorenza Sarzanini si occupa del caso Regeni, sembrerebbe esserci un nuovo dossier dal Cairo e soprattutto un nuovo video, ma questo poi andremo a vederlo meglio quando ci occuperemo delle pagine interne dei giornali. L'editoriale di punta, di spalla come sempre, sul Corriere di oggi è affidato a Maurizio Ferrera: governo e futuro, il rischio di non avere un'agenda. Un po' critico in realtà Maurizio Ferrera, almeno nei confronti dell'esecutivo, non certo verso Renzi, che è ancora un po' visto come il salvatore della patria. Non a caso Ferrera scrive che per salvaguardare un po' di spazio di manovra, almeno in qualche settore, il governo dovrebbe mettere a punto rapidamente un'agenda di misure concrete, corredata di dati e argomenti sui benefici attesi in termini di crescita, occupazione, competitività, eguaglianza di opportunità, mobilità sociale, insomma le solite stesse parole, capace di illustrare, secondo Ferrera, con altrettanta chiarezza le implicazioni negative dei mancati investimenti. Questo in realtà, che cosa ci dice questo editoriale, a parte i vari suggerimenti che Ferrera si permette di fare all'esecutivo e più in particolare a Renzi? Ci dice che il Corriere in qualche modo cerca una sponda nei confronti di Matteo Renzi alla luce di questa grossa fusione che, rinominata dal Fatto Quotidiano Stampubblica, vedrà in qualche modo aggregare due grossi poli dell'editoria, almeno dei quotidiani di questo paese: da una parte la Repubblica e dall'altra la Stampa, e il Corriere della Sera in qualche modo ne resta avulso. Gli Agnelli, nella persona di John Elkann, se ne sono tirati fuori, almeno con le loro quote da RCS, e quindi si apre anche un po' una disputa su chi effettivamente verrà egemonizzato il Corriere della Sera. In ogni caso, il Corriere della Sera cerca una sponda con Matteo Renzi, cerca di essere il meno critico possibile e cerca addirittura in qualche modo di dettare anche una linea, un'agenda, come appunto viene rievocata nell'editoriale di questo fondo di Maurizio Ferrera oggi sul Corriere. Finiamo con gli altri editoriali. Ce n'è uno di Alberto Brambilla, qualificato come docente e presidente itinerari previdenziali, che in qualche modo si lega anche questo a quello di Maurizio Ferrera. Lo troviamo all'interno nello spazio editoriali e commenti. Alberto Brambilla si lega a quello di Maurizio Ferrera perché anche lui cerca in qualche modo di dettare una linea e scrive che nel nostro paese si dibatte spesso sui motivi che ci relegano agli ultimi posti delle classifiche internazionali su competitività, sviluppo, innovazione, libertà economiche, opportunità, uguaglianza, insomma gli stessi termini che troviamo nell'editoriale letto poc'anzi di Ferrera. E cita questo studio del World Economic Forum che ci mette in una posizione poco lusinghiera, 49esimo posto su 144 paesi analizzati, a pari punti con Kazakistan, Costa Rica, Filippine e Panama. Ma il problema è che si fanno molte analisi, poi continua Brambilla, per cercarne le cause, altre ancora per capire come sia stato possibile accumulare un così gravoso debito pubblico, che peraltro rappresenta anch'esso un grande freno allo sviluppo. Insomma, in sostanza, poi la ricetta di Brambilla è tutti si devono rimboccare le maniche. Questo tutti non si capisce bene a chi possa essere rivolto: ai padroni, ai lavoratori, ai cittadini in generale, non si sa. Altrimenti, continua e conclude Brambilla, non ci sarà uno sviluppo ma un addio collettivo alle libertà individuali. E vabbè, chiudiamo. L'altro grande editoriale di oggi del Corriere della Sera è affidato a Bernard Henri Lévy, in traduzione dal francese di Daniela Maggioni, che ci parla di Trump e l'internazionale della volgarità diffusa. Secondo Lévy, anche in America, come è già successo in Italia, Francia e Russia, la politica si riduce a un grande set televisivo dove vincono insulti, posizioni estreme, bassezze varie. Al posto della democrazia trionfa la demagogia. Ma è un processo, forse andrebbe ricordato a Lévy, che è in atto da almeno un paio di decenni, se non di più, e in questo forse l'Italia andrebbe annoverata come avanguardia, perché se pensiamo a Berlusconi, non a caso Henri Lévy lo cita nella scurrilità e nella bassezza, si pensi a Berlusconi, scrive proprio così Henri Lévy. In questo caso insomma ci spetta a noi sicuramente un posto d'onore, almeno in questi tristi primati. Concluso con il Corriere della Sera, ci spostiamo sulla Repubblica. che, come vi dicevo, apre con questa fotonotizia del parto nella tendopoli di Indomeni, con questo bambino che viene sciacquato in mezzo praticamente al fango. E a questa fotonotizia si arreda uno scritto di Melania Mazzucco, scrittrice: quel bambino nato nel fango ai piedi del nuovo muro, sei l'ennesimo, un numero di troppo in una somma con tanti zero. Questo è il commento, questa lettera che Melania Mazzucco scrive oggi sulla Repubblica. E poi la Grecia spinge 2000 profughi verso l'Albania e subito si punta l'allarme per noi italiani, allarme in Puglia, questo è il titolo. Poi andremo a vedere, piuttosto brutto insomma come articolo, perché Chiara Spagnolo mette in evidenza come problema sia il fatto che possano arrivare in Italia, ma insomma da una testata come Repubblica ormai ci si aspetta anche questo. L'altro titolo: basta austerity, ora l'Europa deve investire, un virgolettato, non si sa bene attribuito a chi, ma probabilmente siamo sulle parole di Renzi, a margine del summit dei leader di sinistra, così si scrive sulla Repubblica, leader di sinistra anti-Merkel. E poi ci si lega questo capitolo sulla produttività, così sarà calcolato il bonus. Proprio ieri la Repubblica anticipava un decreto che il governo varerà nei prossimi giorni per detassare i salari e favorire la produttività. Questa parola veramente che andrebbe decostruita, demitologizzata, perché insomma se ne fa la macchina mitologica, si mette in moto per costruire determinati miti, determinate narrazioni. Produttività, ahi noi, è uno di questi. La sinistra europea di governo prova a riorganizzare, una volta si diceva di lotta e di governo, ora sono solo di governo. Questa sinistra europea prova a riorganizzarsi per contrastare il dominio nell'Unione Europea dell'austerity tedesca, al grido di crescita, crescita, crescita. Invece sul Corriere della Sera abbiamo letto che la Merkel è rigore, rigore, rigore. Ormai le dispute politico-economiche si basano su questi grandi slogan, a testimoniare nuovamente la pochezza del dibattito politico non solo italiano ma europeo. In ogni caso, Hollande ha riunito ieri all'Eliseo a Parigi un gruppo di leader del Partito Socialista Europeo, a partire da Renzi e dal primo ministro portoghese Costa. All'incontro, che si è svolto a porte chiuse, il premier italiano ha detto che l'austerity in Europa non funziona o come minimo ha portato sfortuna. La Merkel oggi affronta un importante test elettorale, su questo poi ci ritorneremo, perché si vota in tre Länder e la Germania, o meglio la cancelliera, ma anche socialdemocratici dell'SPD devono affrontare l'ascesa della destra xenofoba e populista e la fronda interna alla CDU, il partito di Angela Merkel, e sembrerebbe anche qui che si stia sfaldando il grande duopolio, il grande bipolarismo socialdemocratici cattodemocratici. In Italia intanto si definiscono i criteri con i quali verrà calcolato il bonus sugli stipendi di chi produce di più, quindi questi due argomenti riuniti nel sommario della prima di Repubblica. Trump, la mossa d'urto, scrive il corrispondente dagli Stati Uniti Federico Rampini, ci sono state grosse proteste, le andremo a vedere almeno dagli articoli che la stampa odierna ci offre, proprio proteste a margine dei vari comizi di questo becero Trump. Nella pancia del giornale siamo sulla cronaca, la strage dell'ultima neve, sei sciatori uccisi dalla slavina, l'allerta lanciata dal CNR, caldo in montagna, aumentano i rischi. E come vi dicevo, sono sei i morti sotto una slavina del Monte Nevoso, Valle Aurina, Alto Adige, a 3.358 metri di quota, 9 fortunatamente i superstiti. La disgrazia avrebbe potuto avere dimensioni ancora più gravi. E dunque andiamo oltre. In realtà non c'è granché altro da segnalare, a parte io e Kasparov, scacco ai dittatori, scrive Roberto Saviano, che è a New York, dovrebbe incontrare Garry Kasparov, noto campione degli scacchi, faranno anche una partita. Saviano, immaginiamo, perderà, perché insomma battere Kasparov sicuramente non è alla sua portata. E si può vivere con gli scacchi e si può vivere senza, scrive Saviano, sono due distinte categorie, non ce n'è una terza. e quindi incontrerà Garry Kasparov, che per lui, scrive, è stata una sorta di epifania. Infine, a chiudere la Repubblica di oggi, il consueto appuntamento con l'editoriale di Eugenio Scalfari, che non andremo a leggere per ovvi motivi, perché soprattutto si occupa anche di Papa Francesco, mi sembra tra i pochi a farlo, e questo dimostra la sua sudditanza nei confronti dell'attuale pontefice. 3 anni fa Bergoglio decise di chiamarsi Francesco, questo è il titolo in questo suo panegirico per il suo amichetto, verrebbe da chiamarlo così, e addirittura in una recente telefonata, testimonia Scalfari, gli ha addirittura risposto il Papa: pronto, sono un rivoluzionario. Ecco, sembra un po' una presa per il culo, perché di rivoluzionario non ha proprio nulla. E poi questa epifania anche qui di Scalfari, che racconta, perché Papa Francesco oggi compie 3 anni e questo è il motivo, 3 anni dalla sua elezione sul soglio pontificio, lo ricordiamo tutti, e questa epifania di Scalfari veramente patetico, in cui dice: ma quando c'è stata l'elezione lo guardavo in TV, ma cercavo anche dalla mia abitazione di Roma di scrutare San Pietro, di scrutare il Gianicolo, e poi avevo sotto gli occhi Francesco e Garibaldi. Cioè, mettere due persone così sullo stesso piano, e poi confesso che quella associazione mi commosse. Ecco, a noi commuove la tua demenza senile. Allora andiamo avanti con il manifesto. La questione murale, come già accennato, è questo il titolo, con il bel murales di Blu, che però viene cancellato da attivisti e attiviste nei pressi del centro sociale XM24. E poi la didascalia, che dice: a Bologna la clamorosa protesta di Blu contro la privatizzazione dei murales, lo street artist anonimo tra virgolette di fama mondiale rimuove le proprie opere che rischiavano di finire in un museo, un gesto che il manifesto definisce giustamente politico in difesa degli spazi pubblici. A commento Arianna di Genova, che è una critica d'arte, nel suo editoriale intitolato Una lezione di civiltà per tutti, scrive che la street art nasce in strada, è pubblica, democratica, allegra, provocatoria, ribelle, clandestina, fruibile in ogni momento senza bisogno di pagare nessun biglietto d'entrata. A volte, anzi spesso, è pure anonima. E questo d'altronde è il suo DNA. Un graffito non è un affresco medievale che va conservato altrove per evitare che l'umidità mangi e polverizzi il colore. Esporlo nei musei significa negare la sua stessa storia e renderlo esangue, normalizzare la sua dirompenza delle origini e tirarlo via dai muri, dalle periferie anche degradate dove è nato, non a caso. È una sottrazione indebita nei confronti di una comunità che può goderne ogni giorno. Dunque il gesto di Blu è politico. E poi si interroga anche sull'ipocrisia dei vari governi, che prima condannano un writer per atti vandalici, così fu fatto per Blu stesso, ma anche per Alice, non so come la pronuncia, un'altra artista che è stata anch'essa denunciata. Quindi prima denunciarli e poi, secondo convenienza, aggiunge di Genova, trasformare quegli stessi atti vandalici, secondo loro, in capolavori da esporre nei musei e da far circolare nel mercato dell'arte. È importante, conclude di Genova, che l'azione radicale e dolorosa di Blu venga seguito anche da altri street artist, sarebbe una lezione di civiltà per tutti. Continua su questo tema, su cui il manifesto insiste molto e a cui dedica almeno la copertina, la prima pagina, ma anche le due pagine che seguono immediatamente dopo. Interessante, come quasi sempre, l'editoriale del sociologo Alessandro Dallago, che scrive: l'arte di strada non è in vendita, questo è il laconico e molto deciso titolo del suo intervento. Andiamolo a leggere, perché insomma merita quasi sempre la lettura. Alessandro Dallago, che scrive: dietro il conflitto sulle opere di Blu a Bologna c'è un problema enorme che non riguarda soltanto il writing o la street art, ma l'estetica urbana come fatto politico e oggetto di scontro sociale. Anzi, il diritto di espressione artistica e non, contrapposto alla cultura degli assessori e al gigantismo spesso trombonesco e manipolatorio degli eventi sponsorizzati. Da un anno circa sui muri delle città tedesche si può leggere una scritta emblematica, non ve la riporto in tedesco per via dei problemi di pronuncia: a chi appartiene la città, è comunque la scritta che campeggia, e la città appartiene ai soggetti anonimi. Questa è la risposta che dà Dallago. Ma insomma, si domanda anche: la città appartiene ai grandi interessi immobiliari, alle amministrazioni elette magari da maggioranze di sinistra, immediatamente impegnate a ripulire le città in nome del decoro urbano come a Milano, ma anche Roma, aggiungeremmo noi, visto che ieri Retake ha cancellato quella grossa scritta che c'era a Porta Maggiore, né pubblico né privato comune. Ma su questo torneremo, perché c'è sempre sul Manifesto a pagina 3 un articolo di Giuliano Santoro che leggeremo anche questo quasi nella sua interezza. E poi si domanda ancora dal Lago, ovviamente in modo retorico, a chi appartiene la città? Alle associazioni dei commercianti, alle banche o magari ad associazioni di maggiorenti o critici che fiutano l'affare dei graffiti? Appunto, la risposta della città appartiene ai soggetti anonimi, secondo Dal Lago. Cancellando le sue opere, Blu ha risposto che la città appartiene anche e soprattutto agli artisti e ai soggetti anonimi che modificano l'estetica urbana indipendentemente dal profitto, dal potere e dalle burocrazie urbane. E poiché le ha realizzate lui a suo rischio e pericolo, è suo pieno diritto impedire che finiscano nelle mani di qualche mercante che sa guardare al di là del proprio naso. E noi ci associamo a queste parole di Dal Lago. L'aspetto inquietante, continua poi il sociologo, aspetto inquietante dell'arte di strada è che non è in vendita, che la sua grazia risiede nella gratuità e persino nel gioco a rimpiattino dei writer con le autorità e la polizia, che inevitabilmente li scambiano per teppisti, trattandoli poi di conseguenza. Miseria delle categorie ingessate del controllo sociale, che vede infrazioni, deturpamenti e violazioni dei codici in un gesto, il dono di un'opera alla città che evade dalla cultura del profitto. Così Blu può essere denunciato per aver realizzato un graffito oppure per averlo cancellato. Un'altra writer di fama mondiale, Alice, appunto Alice, a cui facevo riferimento prima, è stata condannata a 800 euro di multa per un'opera murale che altrove sarebbe stata invece motivo di vanto per una città. E così via, in una sequela di schizofrenie giudiziarie, corteggiamenti estetici, burocratismi comunali, strepitidi, irrisibili associazioni antigraffiti che spediscono i ragazzini innocenti a imbiancare i muri, salvo scoprire che magari quello che ricoprono potrebbe valere milioni, come è avvenuto al celebre Baschi, se non erro, a Milano. E poi conclude là, Dal Lago, forse è più onesto chi reprime i writer apertamente, alla luce del sole, di chi invece strappa un'opera al suo luogo naturale, l'aria aperta, per trascinarla nell'aria stantia di un museo. E proprio a questo proposito della repressione e di chi reprime, Giovanni Stinco da Bologna, che ci fa la cronaca un po' di questa giornata di ieri. In via Zanardi a Bologna, la celebre via Zanardi di Bologna, tre militanti di Laboratorio Cresce sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni e imbrattamento mentre stavano cancellando l'opera di Blu. Secco il commento del collettivo, che dice: quanto sa essere sciocco il potere quando ci si impegna, con questa ci conquistiamo la denuncia più stravagante e imbecille dell'anno. Torniamo sulla prima del Manifesto, perché poi ci sono altri titoli: Renzi, Italicum e Ulivo, scintille fra opposti, PD, il taglio alto, e poi il caso di Napoli con Bassolino che non molla, preme sul partito e spera di essere lui il candidato. Ieri ha fatto un comizio che, insomma, in molte sue larghe parti ricordava un po' l'eloquio di Mussolini, almeno nella sua ars retorica, così almeno a me è sembrato. Ma insomma, passiamo oltre, perché c'è poi un interessante editoriale di spalla sul Manifesto di oggi, Generazione Voucher, di Aldo Carra, che si occupa di politica economica, che giustamente ritorna sul Jobs Act ad un anno dalla sua entrata in vigore. Un bilancio si impone, scrive: il fenomeno del ricorso ai voucher, che ha raggiunto nel 2015 la cifra record di 115 milioni di buoni lavoro, quasi quadruplicando il dato di due anni fa. Con questa esplosione si è completata quella mutazione strutturale dei rapporti e delle forme di lavoro, di capitale lavoro, perseguita tenacemente da alcuni anni e finalmente per i sostenitori realizzata dal governo Renzi. È notissimo, tra l'altro, continua Carra, che si fa ricorso al voucher per una o poche ore al giorno per garantirsi così l'assicurazione, ma poi si fanno tante ore in più pagate in nero. E insomma, una generazione giovane come la mia queste cose le vive sulla propria pelle. Quindi datori e lavoratori vanno ben oltre i limiti fissati, ed a perderci a questo punto sono solo le casse dello Stato per l'evasione contributiva che cresce. Ma non è soltanto lo Stato, su questo bisogna contraddire Carra, ma sono soprattutto i lavoratori e le lavoratrici. Questo Carra non lo mette in evidenza. ma mette poi in evidenza che il fenomeno dovrebbe preoccupare non solo l'esecutivo, il governo, il Parlamento tutto, ma anche e soprattutto l'INPS per i minori introiti. Abbandoniamo l'editoriale per andare sugli altri titoli. C'è questo intervento di Massimo Villone, nome conosciuto all'interno della sinistra istituzionale, un passato nel PC, poi PDS, poi infine Alternativa Socialismo 2000, insomma queste sigle qua, per poi tuffarsi nella Federazione della Sinistra tra Rifondazione e Partito dei Comunisti Italiani, presto naufragata. Comunque Massimo Villone ci informa che oggi a Roma, al Cinema Palazzo, proprio qui a due passi da Via dei Volsci, a San Lorenzo, si presentano i quesiti referendari per l'abrogazione parziale di leggi in vario modo fortemente volute dalla maggioranza di governo. Sono referendum noti come sociali, scuola, acqua, trivellazioni e ambiente. Probabilmente si aggiungeranno poi quesiti referendari sul lavoro, Jobs Act. È l'assalto alla Bastiglia, il popolo contro Renzi? Si chiede Massimo Villone, per poi rispondersi giustamente: certamente no, è la ricerca di nuovi equilibri nel sistema politico istituzionale nel suo complesso. E vabbè, passiamo oltre con l'unica notizia riportata dalla cronaca dagli esteri del Manifesto in prima, ma poi all'interno ne troveremo altri. Riguarda le primarie negli Stati Uniti, Chicago, interrotto il comizio di Trump, proteste e scontri. Attivisti antirazzisti del Black Lives Matter interrompono il palazzetto dell'università con 10.000 posti a sedere, poi scontri con supporter e forze dell'ordine. Andiamo ancora con La Stampa. Ogni tre giorni restituito un bimbo, così falliscono le adozioni in Italia. L'apertura inedita che troviamo solo sulla Stampa tra queste copie, tra questi giornali cartacei che abbiamo, ma come vedremo anche sul Secolo XIX il titolo è più o meno simile. Così in Italia falliscono le adozioni, ed è una inchiesta interessante firmata da Andrea Malaguti, inchiesta nei 29 tribunali dei minori, i genitori lasciati soli, la giungla degli enti senza vigilanza. Negli archivi del Ministero della Giustizia i ragazzini adottati sono nomi e cognomi senza un passato, 50.000 negli ultimi 10 anni, numeri con un'etichetta appiccicata sopra, materiale indistinto buono per le statistiche ma di scarsa utilità per capire da dove vengono. E poi ancora a Roma, mistero sui dati dell'accoglienza internazionale, da 2 anni Roma non li comunica. Come vi dicevo, inchiesta interessante che poi prosegue nelle due pagine successive alla prima sulla Stampa di oggi. Altri titoli dalla cronaca: tragedia in Alto Adige, morti 5 altoatesini, uno di 16 anni. No, scusate, sono 6 alpinisti, considerato anche ovviamente il ragazzo. L'editoriale invece è affidato proprio al direttore di questa testata, Maurizio Molinari, nelle megacittà la frontiera dell'innovazione, e si torna su temi triti e ritriti. Secondo Molinari è una sfida che riguarda molte città italiane, a partire da Roma e Milano, ma anche Napoli, Torino, senza contare le potenzialità di crescita di Palermo e Genova, aggiunge il direttore della Stampa. Ma si parla di innovazione soprattutto tecnologica, argomento per il momento molto fumoso, almeno stando alle parole di Maurizio Molinari. Interessante invece la risposta che Maurizio Molinari dà a un lettore che scrive sulla Stampa, parlando di divisioni della sinistra. Molinari scrive, sentite qui che panegirico a Renzi, per capire un po' anche la Stampa come si, almeno nella voce del suo direttore, come si situa politicamente. Molinari, rispondendo a questo lettore, dice: il PD di Renzi è il frutto di una diversa epoca politica, dove progressista implica soprattutto la volontà di battersi contro le disuguaglianze con ricette economiche generate dal superamento degli staccati del passato, steccati forse c'è un rifuso, del passato. Riguardo poi alle lite intestine del PD, non credo che ci sono troppe differenze rispetto al passato. Insomma, intanto il PC in qualche modo era sicuramente più unito, e poi almeno tutti gli scontri interni non venivano dati in pasto ai giornalisti o addirittura a streaming vari, ma si affrontavano nella riservatezza delle direzioni nazionali. L'istituto Gramsci è fondamentale per questo, perché ci riporta tutta la documentazione con verbali e annessi di quello di cui si discuteva all'interno delle direzioni del Partito Comunista Italiano, del FU Partito Comunista Italiano. Quello del PD è tutta un'altra storia. Comunque, poi tornando alla prima della stampa, c'è un buon reportage, ma Quirico, questo gli va dato atto, sa scrivere bene, inviato a Garabulli in Libia tra i migranti in prigione. Siamo a nelle pagine 4 e 5. Nella prigione di Garabulli per i migranti africani rimasti senza un futuro, gli uomini escono dal centro soltanto per lavorare i campi come schiavi, le donne in celle anguste vengono violentate e restano spesso incinte. Questo è il racconto, almeno l'incipit del racconto offertoci da Domenico Quirico sulla stampa di oggi. E poi, ritornando ai alle, diciamo, a dibattiti interni al Partito Democratico, qui il centro dello scontro, vengono riportate le parole di Renzi: l'Ulivo l'avete distrutto, Tripoli, D'Alema usa Prodi per attaccare. Insomma, capite che i giri sono veramente assurdi, un uomo che usa un altro per attaccare Renzi. Insomma, fatto sta che il premier cerca di liquidare sempre di più la minoranza del Partito Democratico. Bersani insorge, l'ira di Bersani la definisce la stampa, che Bersani replica, dice, come vi ho già detto, ricordati che l'Ulivo l'abbiamo fatto noi. Beh, insomma, non è che sia stata una grande esperienza quella dell'Ulivo, considerato anche poi i fallimenti politico-istituzionali parlamentari. Comunque andiamo oltre, perché poi ci sono altri due interventi. Uno lo andremo a leggere dopo, quando ci occuperemo di esteri, ed è se Cuba entra nel fondo monetario. Andrea Montanino, ma anche il Manifesto, si occuperà di Cuba, quindi li legheremo insieme più tardi. La Russia di Putin, infine, dove gli avversari vanno in Siberia. Antonio Maria Costa in realtà ci fa un po' un affresco di quella che è la Russia post-sovietica, putiniana, in cui alcuni oligarchi, tra cui quello di cui racconta lui, Berezovsky, il figlio di Boris Berezovsky, che si è arricchito tantissimo grazie alle politiche infauste e terribili di Boris Yeltsin a inizio anni 90, vabbè, questo il figlio è stato spedito direttamente in Siberia. Con la stampa è tutto, andiamo all'ultima testata che abbiamo disponibile in formato cartaceo, che è il Messaggero, che titola così: Renzi sinistra è guerra aperta. Il premier che dice: non prendo lezioni da chi ha distrutto l'Ulivo, e difende le primarie del PD e soprattutto l'Italicum. Bersani che gli risponde: ha passato il segno, non si deve permettere, guai, attenzione, come se Bersani potesse far paura a qualcuno. E poi Bassolino: se si accettano i brogli è finita. E legato a questo andiamo sul Messaggero, che mi sembra l'unico che riporta, almeno di quelle lette fino adesso, poi la stampa di destra l'andremo a vedere tra poco, l'unico che riporta notizia delle gazze varie. Berlusconi blinda Bertolaso, intanto avanza l'ipotesi Meloni che riceve l'assist di Salvini. Qua veramente siamo nel caos più totale, ma siamo alla farsa. Roma, in cella dai killer di Luca. Foffo che dice: volevo uccidere mio padre. Il Messaggero, ovviamente, da quotidiano romano, punta molto su questo caso, ma io non ci ritornerò. Poi la tragedia dell'Alto Adige, che si conquista anche la fotocopertina con l'elicottero che ha cercato di soccorrere le vittime. Valanga su un gruppo di sciatori, morti 5 italiani e un austriaco. Infine l'ultima notazione, ed è il Messaggero l'unico a riportarla in prima pagina, sugli altri giornali è sparso un po' all'interno: caso Vatilix, con Monsignor Vallejo Balda che torna in carcere. Ce ne occuperemo più tardi leggendo proprio dal Messaggero. L'editoriale affidato a un ormai da tanto tempo storico collaboratore di questa testata romana, ovvero Romano Prodi, quindi uno dei big del Partito Democratico. Spesa e deficit, la ricetta di Pechino contro la crisi. In realtà è interessante, perché Prodi soprattutto in questi ultimi anni si sta occupando molto di Cina, è andato spesso in Cina e ci informa che ogni anno nella prima metà di marzo si tengono a Pechino due importanti appuntamenti rituali della politica cinese, che sono l'Assemblea Nazionale del Popolo e l'Assemblea Consultiva, che sono anche il momento in cui viene presentato il piano quinquennale. Proprio quest'anno verrà presentato con tutti i suoi parametri e i suoi obiettivi, scrive Prodi. Un percorso che ovviamente riguarderà i prossimi 5 anni, che è stato battezzato come una nuova normalità, una normalità che poi in realtà si esprime con tassi di crescita tra il 6,5 e il 7%, un livello non certo trascurabile, considerato che in Italia si cresce sì e no nemmeno dell'1%. E, secondo Prodi, un piano che offrirà 10 milioni di nuovi posti di lavoro all'anno, accelerando nello stesso tempo produttività e progresso tecnico. Ma poi si parla ancora di robusta politica di spesa, politica monetaria espansiva, aumento del deficit di bilancio. Ma il tasto più importante su cui le autorità cinesi dovranno investire è quello dell'aumento dei consumi, che anche Prodi lo mette in evidenza, appare come il pilastro fondamentale della nuova fase dell'economia cinese. Un ruolo determinante per lo sviluppo futuro viene naturalmente affidato ad un'accelerazione del trasferimento della campagna alla città di 100 milioni di persone, cioè parliamo di masse enormi, di cui anche questo piano dovrà occuparsi. Con questo è tutto dalla prima del Messaggero. Passiamo brevemente alle pagine dei quotidiani che abbiamo online. Il Fatto Quotidiano apre con questo titolo: Renzi vuole l'acqua privata. Il Premier attacca anche il referendum contro le trivelle, che dicendo non è di buon senso. Il governo dice sì alla cancellazione dell'obbligo di gestione pubblica. Poi intervista a Fo nella seconda pagina, anche queste notizie che negli altri giornali vengono riportate all'interno con poca rilevanza, sul Fatto Quotidiano vanno in prima, ed è la notizia di un'ennesima poltrona per un uomo del nuovo centrodestra, per il figlio di Gentile, già Ras Calabrese, che è stato nominato l'istituto tumori ma non ne ha nessuna qualifica. Ci pensa il ministro della sanità Lorenzin, scrive il Fatto Quotidiano. Cos'è davvero successo nel caso delle mail del Movimento 5 Stelle? Il Fatto si sofferma sulle accuse di spionaggio della Casaleggio Associati & Co, ma c'è un'altra gatta da pelare in casa grillino, ovvero il fatto che sembrerebbe sia stata bocciata la candidata grillina a Milano, tra l'altro eletta con una manciata di voti, parliamo veramente di 74 voti alle primarie, o come li chiamano loro, non mi ricordo, primarie grilline. Sembrerebbe sia stata bocciata perché non c'è un accordo totale, ma soprattutto verrebbe da pensare, questo veramente fa molto dispiacere, ma purtroppo ci dà il polso anche di quella che è la situazione in Italia, ma non solo, ovvero quella del sessismo, perché pare che insomma sia stata bocciata soprattutto per il suo aspetto fisico. È una donna sicuramente non telegenica, e quindi questo ha fatto pensare al duo Casaleggio Grillo che non possa essere affidabile per un'eventuale corsa come sindaco di Milano. Questo è un po' tutto. Si parla, si ritorna sul Fatto Quotidiano anche sull'era di Matteo, ovvero Renzi, e soprattutto Stampubblica. E poi Trump prima di Trump, ascesa dell'arci americano, si ripercorrono un po' l'ascesa di questo becero personaggio. Passiamo oltre con il giornale. Berlusconi non molla, ovviamente qui nella testata di proprietà del gruppo Berlusconi si dà spazio a Il centrodestra che si conta, così si titola, attenzione alle stelle con Salvini e Meloni, ma il candidato sindaco a Roma resta Bertolaso. Ieri Berlusconi ha sparato contro la Lega dicendo rappresentate l'1,4% dei voti, dovete in qualche modo fare pippa, come si dice qui a Roma. Alessandro Sallusti rincara la dose nel suo editoriale. E poi, nonostante il buco di 13 miliardi, l'INPS paga le vacanze all'estero a 22.000 figli di dipendenti statali. E andiamo oltre sul Libero, che ritorna su questo decreto che è stato largamente anticipato dalla Repubblica di ieri, su come cambia il lavoro, premi produzioni più ricchi, ma da oggi dimettersi costa. Finalmente diventa operativa la detassazione dei guadagni extra, però allo stesso tempo entra in vigore pure una cervellotica e dispendiosa procedura per lasciare l'azienda. E poi Belpietro, Renzi di fascissione per cancellare le ultime macchie rosse, non ha tutti i torti. E poi con questa didascalia piuttosto ironica, viva il partito di Baffone D'Alema. Primarie truffa, molto meglio abolirle. Qui a parlare è Giampaolo Pansa nel suo bestiario della domenica di Libero. Berlusconi scarica Salvini e la Meloni, la gazzebbata lancia Bertolaso nel centrodestra e rottura, ma anche qui vedremo che insomma ci sono stati un po' di punti oscuri, pare voti doppi, si parla di 30.000, ma sicuramente saranno stati di meno. I tre anni di Bergoglio, anche qui Libero ci ritorna, ma è l'unica testata a farlo in prima pagina assieme all'editoriale di Scalfari sulla Repubblica. Il pontificato che rischia di demolire la Chiesa, ma ovviamente a parlare Antonio Socci, un ratzingeriano conservatore reazionario di ferro, e sulle pagine di Libero. Il Tempo, Gazzebari, abbiamo votato 22 volte Bertolaso, non si capisce che cosa vuol dire questo titolo, leggiamo l'occhiello, la nostra cronista, ah, un'inchiesta del Tempo con la cronista che va nei seggi senza controlli, e appunto quello che vi dicevo proprio poc'anzi, pare che si sia votato più volte, una stessa cittadina o cittadina abbia voluto votare più volte lo stesso candidato, ovvero Bertolaso. Oltre la metà dei tram non funziona, gli altri sono fatti a pezzi. C'erano una volta i tram di Roma, questo è il titolo del Tempo, e poi insomma nient'altro da... Si torna sullo scandalo delle mazzette ANAS, Martinelli: non ho mai preso mazzette, la difesa ufficiale in un'intervista al Tempo. Andiamo sull'Unità velocemente, è finita la guerra di Troica, titolo brutto. Dopo Mario Draghi, il vertice di Parigi del PSE più Tsipras, che in realtà il manifesto poi dice un intruso Tsipras nella convention di questi socialdemocratici, in realtà non è assolutamente un intruso, sembra in qualche modo farne parte, seppur un appendice un po' più radicale, ma di quello anche lui fa parte. Comunque questo vertice, secondo l'Unità, rilancia lavoro e crescita. E riportate le parole di Renzi: niente lezioni da chi ha distrutto l'Ulivo regalandoci Silvio Berlusconi. Anche l'Unità, stessa foto di copertina come la Repubblica, la vita nel fango, e poi l'editoriale annesso del direttore Erasmo D'Angelis, e poi la Domenica di Walter Veltroni, su cui non ci soffermiamo assolutamente. E con questo è veramente tutto dalle prime pagine. No, invece ci manca il Mattino, che ovviamente punta tutto sulle primarie napoletane con le dichiarazioni di Bassolini. Renzi che dice: primarie, il risultato è chiaro, e quindi in qualche modo batosta Bassolino, grande ovviamente risalto sulla testata napoletana. Infine Avvenire: Siria, ferita aperta, 5 anni di guerra, sono 270.000 le vittime, speranze dalla tregua e dai colloqui di Ginevra, ma ci ritorneremo magari in sede di rassegna dagli esteri. C'è poco da sperare, i colloqui diplomatici di Ginevra sono già falliti, non c'è da riporvi troppe speranze, e anche sul quotidiano dei Vescovi non poteva essere altrimenti. Largo spazio ai 3 anni del pontificato di Bergoglio, viene intervistato un teologo, Scannone, che dice così ha avviato il rinnovamento secondo lui, e poi il politologo Novak, geopolitico, con la spontaneità ci ha conquistato. Con questo è tutto, diciamo al volo qualche segnalazione dai giornali prima poi di lasciare spazio all'editoriale a cura della redazione verso le 11 o giù di lì. Qualche segnalazione, partiamo dal Manifesto, apriamo con la questione di Blu, che ci sembra assolutamente forse la più rilevante, almeno stando alla stampa di oggi, perché poi i casi ovviamente più importanti sono altri, ma almeno sulla stampa ne troveremo articoli soltanto oggi. Stampa che se ne occupa, a parte il Manifesto, molto poco, addirittura su alcuni giornali è assente il caso. Sulla Repubblica una pagina a cura di Michele Smargiassi, ma molto in fondo. Comunque sul Manifesto, sempre meno rossa e senza Blu, questo è il titolo ironico del Manifesto all'interno, con Roberto Ciccarelli che scrive: di sé Blu non parla, parlano le sue opere super iconiche, affreschi colossali concepiti per proteggere da uno sgombero l'ex magazzino dell'aeronautica militare in via del Porto Fluviale a Roma, lo conosciamo bene, c'è anche una foto sulle pagine del Manifesto. trasporto fluviale occupato da 450 persone in emergenza abitativa, oppure l'ex mercato ortofrutticolo occupato dal centro sociale XM24 a Bologna, altro posto che conosciamo benissimo e a cui proprio questo sabato ci sarà una serata, e ringraziamo i compagni e le compagne del centro sociale XM24, una serata proprio a sostegno di questa radio, Radio Onda Rossa. E comunque continua Ciccarelli, che scrive: la cancellazione dei murali bolognesi non va intesa solo come una difesa dell'indipendenza dell'artista o una protesta contro la riduzione della street art a arte decorativa. Ieri si è risvegliato un conflitto sociale sul futuro delle città. Era tutto rappresentato il murale all'XM24, che ormai postuma è diventata famosa. Rappresentava il colossale scontro tra la città opulenta e ricca contro la città che lotta contro l'ingiustizia. Le munizioni: da un lato enormi tranci di mortadella, dall'altro cocomeri e zucche. Riferimento alla mortadella non può essere casuale, considerato anche che Bologna è la città di Prodi, o meglio della sua famiglia, molto nota. Comunque l'affresco di una guerra contadina, una giacquerie, continua Ciccarelli, combattuta con armi alimentari. A Blu non manca l'umorismo. Le parti in gioco sono chiare: da un lato c'è l'ideologia del decoro urbano che trasforma i quartieri in salotti ed eventifici, dall'altro lato i movimenti sociali dal G8 di Genova ai NOTAV. Su questo tema passiamo sulla stessa pagina a parlare di Roma, perché Giuliano Santoro fa un bell'articolo: retake e decoro irrompono sul voto romano, e ci dice anche un po', ma ce l'ha fatto anche Zero Pregi in precedenza, un affresco di quello che è Retake Roma, che cosa rappresenta. Si chiamano Retake Roma, scrive Santoro, dopo alcuni anni di azioni spontanee contro il degrado, ieri mattina hanno messo in scena quella che definiscono il più grande retake di sempre. Si sono incontrati a Piazza Vittorio all'Esquilino, sulla Nomentana, Piazza Ancomarsia d'Ostia, e allo snodo monumentale di Porta Maggiore, con l'obiettivo di ristabilire il decoro e appunto di cancellare il degrado, questa parola che ci assilla ormai da diversi anni. E però per la giornata ribattezzata Wake Up Roma, se poi si va a indagare bene, si vede che i principali collaboratori sono di Ama e Atac, ma ci sono anche molte sponsorizzazioni, tra cui, pensate un po', e questo ci dovrebbe far riflettere, ma insomma da questa radio non abbiamo parlato molto, tra i sostenitori di Retake c'è anche Clear Channel. Che cosa fa Clear Channel? È l'azienda che gestisce la concessione degli spazi pubblicitari. Apriti cielo. I volontari hanno cancellato anche la grande scritta né pubblico né privato, comune, ne accennavo prima, che campeggiava fin dalle giornate degli arresti di Mafia Capitale, quella che era considerata, è considerata tuttora, una grande bacheca per i movimenti sociali a Roma, in cui si mettono manifesti, si fanno soprattutto scritte con il rullo. Questa è stata cancellata. Sempre in questo luogo, a Piazza a Porta Maggiore, i volontari in pettorina hanno anche trovato un gruppo di attivisti della carovana delle periferie, poi attivisti del Movimento per Lotta per la Casa USB, i quali hanno contestato l'iniziativa, dicendo, insomma, giustamente, contestando questa operazione populistica di Retake. Tra l'altro la grillina candidata al comune, Virginia Raggi, ci si è tuffata, non a caso la sua prima uscita pubblica, ci ricorda Giuliano Santoro, è stata una giornata di pulizia tra virgolette al parco del Tufello, e comunque si sono visti anche grillini ieri in queste occasioni, che hanno collaborato sempre con Retake, che però ieri si sono dati appuntamento a Centocelle, a Piazza dei Gerani. Con questo direi concludiamo con il caso su Blu. Qualche spunto, qualche spigolatura dalla politica interna, glissiamo sul caso primarie, però qualche cenno va fatto. Allora siamo sempre sul Manifesto, pagina 4, caos primarie, un candidato si ritira, siamo sulle primarie dei Giovani Democratici, anche loro fanno le loro primarie, una contestazione durissima, no, dalla redazione del Manifesto, si abbatte sulle primarie dei Giovani Democratici. E Dario Costantino, uno dei candidati che si è ritirato, denuncia presunte irregolarità. Anche qui cominciano subito da giovani, giustamente devono abituarsi da subito a insomma, anche i brogli bisogna saperci fare, quindi si abituano da subito. L'altra è questa notizia che appunto Patrizia Bedoli del Movimento 5 Stelle si è ritirata, molti giornali lo danno come già notizia fatta. Ma avremo aggiornamenti nel corso di questi giorni. Si è ritirata la corsa per sindaco di Milano, e appunto non stupisce che ci siano state pressioni anche da parte dell'Erturace, di Grillo e Casaleggio per una sua eventuale non essere telegenica, non essere abbastanza bella come altri candidati. Non a caso a Roma è stata scelta anche Virginia Raggi, che è un volto sicuramente molto più televisivo, e questo insomma dovrebbe far riflettere anche sulla natura sessista, nonché xenofoba, questo l'abbiamo rilevato più volte, del Movimento 5 Stelle. E allora torniamo in rassegna stampa, l'ultima finestra prima poi di lasciare spazio redazionale successivo. Partiamo con qualche nota sul lavoro. Il Messaggero ci informa che per la prima volta la maggioranza dei giovani italiani, oltre il 63%, è pronta a emigrare all'estero per cercare lavoro. 9 su 10, praticamente la quasi totalità, sono convinti che ormai lasciare la penisola sia una necessità. Le mete più ambite: Australia, USA, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. È questo il quadro che emerge dal rapporto giovani sul tema mobilità per studio e lavoro. Ma sulle spigolature tra capitale e lavoro abbiamo già letto l'editoriale sul Jobs Act del Manifesto. Sulla Repubblica, a pagina 4, si titola "Orari, qualità, risparmi, così si calcolerà il bonus sugli stipendi di chi produce di più", ma ancora tutto molto fumoso. Di voucher parlavamo prima, non ricordo a quale testata, ma sul Corriere della Sera ci si ritorna. Stretta sui voucher, pagina 30, sezione economia, obbligo di SMS, la mossa del governo contro gli abusi, un messaggio all'INPS per ogni buono. E poi ancora si lega lo stesso tema che abbiamo letto su Repubblica, premi aziendali, il decreto poi che taglierebbe le tasse. Allora andiamo velocemente su intanto il processo Vatileaks, con Balda che torna in carcere, sono stati revocati i domiciliari al Monsignore Spagnolo, così ci informa il Messaggero. Per i magistrati avrebbe tentato di inquinare le prove. L'udienza si è tenuta ieri mattina, ce ne sarà un'altra domani. E quanto invece alla Shawki, ex consulente vaticana, il Messaggero, tramite la firma, la penna di Franca Giansoldati, scrive: scelto, nominato per sbaglio dal Papa alla Cosea, insomma, come se il, vabbè, sorvoliamo. Ieri ha incaricato il suo avvocato, la Shawki, di leggere una lettera per Papa Bergoglio scritta appositamente per ottenere il permesso di essere sollevata dall'obbligo di rispettare il segreto pontificio. La richiesta è stata però rifiutata. Caso Regeni, spunta il video di un litigio, sempre Messaggero, pagina 11, il filmato online del giorno prima della scomparsa, immagini che sarebbero state riprese da telecamere posizionate proprio a ridosso del consolato italiano al Cairo. Poi anche sul Corriere si parla di un dossier di autorità egiziane sul caso, ma anche qui siamo non se ne hanno i dettagli. E direi dunque di passare velocemente agli esteri, quando in realtà le pagine sugli esteri sono diverse. Partiamo, come vi dicevo, da quel editoriale su Cuba, perché se Cuba entra in fondo monetario, della Stampa, a scriverne Andrea Montanino. E beh, insomma, sì, è vero che da una parte, come ci informa Montanino, l'ingresso nel fondo monetario prevederebbe tra l'altro diversi dossier, quindi un'informazione anche più accurata su quello che è il funzionamento interno, fiscale, tributario, economico dello Stato cubano. Dall'altra però è comunque il primo passo per entrare con capitali stranieri e nello Stato cubano. Il Fondo e la Banca Mondiale potrebbero aiutare Cuba, infatti, scrive Montanino, a perfezionare un sistema di tassazione secondo standard internazionali, rendere efficiente l'amministrazione fiscale, migliorare il funzionamento della banca centrale. Significa prestiti, ma i prestiti hanno un costo, i prestiti hanno un interesse, e quindi significherebbe inevitabilmente indebitarsi. Sul Manifesto invece, pagina 5, no scusate, pagina 7, sugli esteri, addio alla posizione comune, virgolettata, del 96, che cosa prevedeva? Una sostanziale chiusura dell'Unione Europea nei confronti di Cuba, e invece proprio questi giorni l'Unione Europea ha voltato pagina con L'Avana. Fra Unione Europea e Cuba inizia una nuova fase storica, lo ha sottolineato Federica Mogherini proprio ieri. Ampia pagina ci sarebbe da fare su Trump, sulle diverse proteste che fortunatamente sono avvenute a margine dei suoi comizi, uno fortunatamente è stato interrotto a Chicago. Sempre per gli esteri, a Ginevra, dialogo sulle rovine, lo abbiamo visto, è il titolo di apertura di Avvenire, ma anche il Manifesto ci torna su questi colloqui internazionali. Oggi ci sarà l'ONU, Kerry e Lavrov si incontreranno, ma alcuni, soprattutto gli americani, vogliono una transizione di governo senza Assad, ma Damasco su questo certamente non transige. Sulla Repubblica, paginone interessante che fa riflettere. Per fortuna la Repubblica si è decisa a mandare un corrispondente in Ucraina, perché leggiamo che è stata incarcerata una, eccola qui, Nadia, la Top Gun che digiuna in cella per la libertà. Questa Nadia è una neonazista, fa parte proprio di una milizia paranazista ucraina. Mosca l'accusa di omicidio, in patria però è una eroina. Addirittura Giulia Timoshenko, per farvi capire che tipo è, ne ha sfruttato la notorietà e facendola eleggere deputato nelle fila del suo partito. E però adesso l'imbarazzo è anche, riguarda anche gli ucraini, quindi qualcosa dovranno fare. Blitz anti-ISIS, tre jihadisti arrestati a Roma. E poi per chiudere sugli esteri, no, c'è la notizia che, ah, questa qui, sì, questo articolo un po' brutto di Chiara Spagnolo, richiamato già in prima, ma poi a pagina 9, in realtà è un articolo piuttosto breve. La Grecia spinge rifugiati in Albania, il problema e soprattutto la paura si spinge molto sull'allarme per la possibile ripresa degli sbarchi lungo le coste del Salento. Per ora sono 162, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare a 2000, e quindi questo è il grosso problema per Chiara Spagnolo, che si riduce tutto a un conteggio di numeri quando in realtà sono esseri umani. Il paese in cui è stato realizzato un campo di accoglienza a pochi chilometri dalla frontiera albanese, a un centinaio dalla costa settentrionale ellenica. Intanto tensioni continue e tornano a registrarsi a Calais in Francia, dove procede lo sgombero dell'accampamento detto Giungla. 14 persone sono state arrestate durante una manifestazione xenofoba di attivisti dell'estrema destra. Per chiudere sulla cronaca di Roma, vabbè, non torniamo sulle gazebarie o i problemi interni al PD romano, un Giachetti che va a trovare Pannella insieme a Renzi, ma questo titolo del Messaggero Cronaca di Roma, salari e mense, i tagli del comune, insomma purtroppo la solita storia. In bilancio spuntano risparmi extra, 73 milioni in più di quanto imposto dal piano di rientro, dal Campidoglio stretta contro gli sprechi, abbattute le spese per noleggiare fotocopiatrice. E poi infine bus sorvegliati speciali dai vigili urbani, penso l'ATAC invierà vigili urbani almeno nelle periferie dove di solito si manifestano incidenti. Beh, con questo è tutto, quando sono le 11 e 6 minuti primi di questa domenica 13 marzo 2016, la rassegna stampa si conclude qui, ma invito gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa a rimanere sintonizzati su queste frequenze di 87.9, perché parleremo di temi molto importanti, soprattutto importanti per le nostre lotte, anche all'interno dei movimenti tra compagni e compagne. Parleremo di stereotipi di genere, violenza sessuale, stupri, anche a margine di quanto detto l'ultima puntata, e quindi insomma ci occuperemo principalmente di questo in una trasmissione curata interamente dalla redazione di Radio Onda Rossa. Quando sono le 11:07, qualche minuto di pausa per ascoltarci un brano musicale che vi faccia riposare un po' le orecchie, e torniamo poi subito in diretta. Qui vedo tanti compagni e tante compagne già pronti ad invadere la sala regia del mixer.